è attaccato. Una volta tolto, ascolta, dimmi se è così, che se è così cambia qualcosa. Se guarda un po' con scala a te. Ascolta, non pensa il tuo accione. Mi migliora la radio quando attacchi. Allora, facciamo così. Questo facciamo a metà. Vabbè, quindi praticamente migliora, è lontano peggiorando. Ma ormai non siamo offendo. Allora, aspetta, che sto guardando un attimo, che sta andando. Aspetta, dimmi se sta andando in saturazione. Adesso sì, adesso leggermente. Ma credo che sia quasi normale. Sta andando in saturazione, sì. Un po' sì. Però non è male, è piacevole, dai. È troppo. Purtroppo quando si dà troppo fa così. Guarda se vado io in saturazione. No, cara, non sei in saturazione. Bene, va, non c'è problema. Ciao Antonio, Bongo, buonasera, ben ascoltato. E come è che non hai niente attaccato, eh? Perfetto. Ma già c'è il segnale. Questa volta già c'è il segnale, no? Non so con l'altro, non so poi, però già c'è. Ma soprattutto è buona la radio. Guarda, quella è così, se fa in saturazione, può essere lo stesso. No, per me è buono ancora. Ciao Antonio Bombo, buonasera, ben ascoltato. Come mi ascolti di a te? Che segnale c'ho? 25 radio 5, una bomba. Oh, già va bene allora. Voglia che va bene. Vabbè, è dolce, è gnocchi. Cioè, va benissimo, basta. Ah, va di tutto, vai in ora a Maracca. Purtroppo non l'ho caricato, si sta lamentando. E chi è che sta lamentando? Il gatto. Il cellulare. Ah, il cellulare sta lamentando. Già va bene allora. Non c'è problema. Ma gamba. Adesso mi stavo mettendo un po' di segno per farmi trascare un po', per non può farla, non ho fatto la palla, cazzo no. E quindi Fabri va bene il segnale? Con lo scala, con te? No, va bene, cosa stai usando? Dalla 48 con il saletta. L'amplificatore quello grosso. No, vabbè, io la signora sono il chiaro perché il segnale mi viene male da te, con questo non so nemmeno ancora come guardare. Allora, invece senti qua, allora, io sono liscio adesso, tu dici sì. Allora, così sono con la prima attacca, però si fanno la reale tutto quanto, mentre non può essere così tanti la prima. Vabbè, con questa la 48 non è che c'è molta differenza, oggi va bene. Aspetta, se diminuisco. Era capire quando se loro non vanno in saturazione, era capire come regolarlo. Uno non vuole stare prova, quindi va bene, no? No, non va in saturazione, va benissimo, non ci sono problemi. Ottimo per la truppa. Bombolino! Gamma, spinge anche molto forte di modulazione, la verità. Però, questa è la prima attacca, capito? Però metto la trovata, metto questo è un miliardo, è così. Perché così sono con la seconda. sono quelle cose che quando inizia a saturare, così come il XM inizia saturando. No, no, io ti ascolto benissimo. Aspetta. Io ti ascolto benissimo, alla grande, non ci stanno problemi. Allora, questa è la porta attacca, questa è la porta attacca. Dimmi come va? Vai sempre bene, sempre benissimo, non c'ho problemi. Adesso questa è la quinta attacca, probabilmente non dovrebbe avere problemi. No, oh, vai bene, vai bene. Ottimo per la truppa. Ottimo. E questa è la sesta attacca, però credo che questo magari sattura. Questo sì, questo sì. Va bene la prima, la seconda. Aumentato il segnale, tu. Sì, anche aumentato. Adesso più di 9,25 e 6. Ma se ne dà quella cosa?

sono Fondo Scala e tu ci vedo il tuo VM, sei Santiago 5, qua col baracchino. Un baracchino, tra l'altro, è un baracchino di quelli vecchi, una KB23. Sento un fruscio sotto, la tua modulazione è comprensibile, però non hai un ottimo segnale. Io trasmetto nella zona alta di Scala di Ciocca, per andare a Scala di Ciocca. E sto usando, ti sto dicendo, un Turner più 3 con un HB23. Un po' di watt, insomma, un pochino, no, non molti, così no, non mi la fotte nulla. così, no, allora basta scendere qua e si fanno tutti assieme. Dove c'è qualcuno vuole stare su, che stia su, ma cazzo non so. Non ci devo rimettere niente, io l'ho già detto, e quindi va bene così. Minchia, qua c'è proprio bello, si è aperta la porta, se no non è possibile. Qui quando attacchi questa roba inizia a scarlare, sono delle stufe. Sento, Qualcuno ha chiamato. Io ho strato da tramello, ma mi sento un filovaratino, quindi no, non sento nessuno se parla lui. Se non parla lui, si già risente, la sento. Chi è che chiama? Adesso aumentato ancora. Comunque riesci a ascoltarti. ce l'ho attaccato su un grosso amplificatore, però non si riesce ad usarli quando c'è gente negli altri canali, capito? C'è gente negli altri canali, quindi non riesco a farlo andare. Cioè il RAM non sento, c'è un battimento zero, capito? Hai capito, Valì? Ah, scusa, non avevo capito se stavi lanciando a me o meno. Io ho capito, va bene, hai diversi di apparati. Come vuoi? Come mai? Oggi se ne sono andati su altri canali a rompere le scatole, così. Evidentemente le va di parlare su altri canali, a volte si lamentano, non c'è nessuno su 10. Quando ci sono io che c'è gente, loro se ne vanno alle altre parti e va bene, forse l'importante è che ci sia gente in radio, non è un problema. Ma mi dispiace, potevo modulare con quello col baracchino, ma non fa. Se c'è il mio vicino su un altro canale non fa usare i baracchini, capito? Perché mi fa abbattimento, quindi niente, sono costretto a usare gli HF. Sì, di baracchini ne ho belli, base, c'ho il Royce, non so se lo conosci, il Mark 5, che è favoloso, è un grande baracco da base, tutto in acciaio. Qui c'è lo standard base, il Royce 5024, il console primo, l'SBE, ne ho tanti, molto belli. Con la sezione dei baracchini, perché c'è una scrivania di 5,40 L, con la sezione baracchini, ognuno c'ha il panel più 2, il panel più 3, il Savelta, l'SBE e così via. Mentre la sezione invece HF, questa che sto parlando adesso, assottonando con il 440. Capo, sentito. E dopo, Claudio, un attimino il Conex che mi ha scusato il telefono, riprendi. Capo, siamo qua, Fabri, riprendi. Riprendo io, mi sto ascoltando. Adesso volevo fare una puntatina saluta su 45 e poi me ne entro un attimino dentro. Tutto il giorno facendo qui sono stanchissimo. Poi sono uscito, ho tirato fuori due alpucci a farlo girare un po', che adesso è il tempo suo, se domani è bello, domani mattina mi faccio fare un altro giretto. Io su 45 questioni non faccio, ti ripeto, posso salutare, basta una questione, non faccio su 45, già siamo nel mirino, me ne vado anche fuori banda a parlare, no? Sto qua, anzi se ti ascolti che chiudo anche io, me ne vado a vedermi un po' di TV, sono già le 10:30 e poi me ne vado a mamma. Quindi anche io faccio così. Accompagno un po' mia moglie, saluto, faccio un salutino giusto per provare questa roba, vedere come mi sento loro, e poi anch'io me ne vado dentro. Ehi, dai, ciao Fabri, buonanotte, alle prossime, ci sentiamo. Bombo, riprendi per i saluti. Buonanotte Fabrizio, ce la risentiamo, capa. Buonanotte, alle prossime, mi sposto su a salutare, voglio fare un paio di prove, loro mi servono e poi me ne vado dentro anch'io. Ehi, va bene, ci sentiamo Fabri, ciao. Anto, ti saluto, dai. E io chiudo e me ne vado a vedermi la TV, dopodiché me ne vado a nanna. Ci sentiamo, Anto, a domani, ciao. Ciao, come per farvi, ce la risentiamo. Con questo qua va meglio, va vero, mi senti meglio adesso.